che un po' rifà alle di si rifà, o almeno fa venire in mente le dichiarazioni che ha reso proprio in conferenza stampa Terry Gilliam, il quale sostiene che si trova in un mondo che non comprende più e che forse questo sarà addirittura il suo ultimo lungometraggio. Diciamo per noi, si è detto questa cosa, per noi questo è un orgoglio comunque distribuire quello che poi è stato è il progetto di Terry Gilliam per eccellenza, perché l'ha inseguito, come dicevamo, per così tanto tempo. Per cui sì, insomma, speriamo ora che la sala, che molte persone vadano a vederlo in sala, perché ne vale veramente la pena. Poi è come al solito inutile dire che Terry Gilliam è un regista visionario, quindi è un film proprio che durante la visione ci si emoziona, si sorride, quindi consiglio veramente a tutti di andarlo a vedere. Allora, ricordiamo L'uomo che uccise Don Quixote, film di Terry Gilliam, in uscita in sala giovedì 27 settembre per M2 Pictures. Un saluto e un ringraziamento a Giusy Santoro. Giusy, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, grazie a voi.